perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Trump ha la nomination repubblicana e l'accetta. Sarò la vostra voce, ripristinerò forza e sicurezza. Parte ora per davvero la corsa alla Casa Bianca. Terrorismo, riflettori su Rio de Janeiro dopo 10 arresti di ieri. A Nizza incriminati in 5 e la conferma, Boulel aveva complici. Migranti, centinaia, le persone che arrivano ogni giorno ad Augusta. Il sindaco annuncia lo sciopero della fame. A Trapani mancano i loculi per i morti. Xylella, la Commissione europea avvia una nuova procedura di infrazione contro l'Italia per il virus che colpisce gli ulivi. Fermato due volte, la prima con 7 etti di marijuana, la seconda con 1,5 etti, denunciato e lasciato a piede libero in entrambi i casi. Basta turisti che si siedono nelle aiuole, il sindaco di un comune ligure vara l'ordinanza, si innaffia a mezzogiorno, così non si possono sedere più. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e poi il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno e l'email effettogiorno@radio24.it se avete delle storie che ci volete segnalare. In apertura, dunque, andiamo negli Stati Uniti con Donald Trump che accetta la nomination. America safe again. And we will make America great again. God bless you and good. Faremo l'America di nuovo grande. Con queste parole Donald Trump ha chiuso il suo lungo intervento sul palco della convention repubblicana di Cleveland che lo incorona ufficialmente candidato alle presidenziali. Standing ovation mentre tutti i membri della famiglia, dalla moglie Melania ai figli e ai nipoti, raggiungono il tycoon sul palco. Nel discorso si definisce il candidato dell'ordine della legalità, accusando Obama di aver diviso l'America rendendola più pericolosa. Se eletto, assicura, dal 1 gennaio restituirò sicurezza al paese. Promette di essere la voce di uomini e donne dimenticati, conferma il muro lungo il confine con il Messico per fermare l'immigrazione illegale e annuncia di voler sospendere l'immigrazione da tutti i paesi che sono coinvolti con il terrorismo. Trump si scaglia contro il politicamente corretto. Non possiamo più permettercelo, dice. Se volete sentire menzogne, andate dai democratici. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A 2 settimane dalle Olimpiadi di Rio sale l'allarme terrorismo. L'arresto di ieri scuote l'opinione pubblica, ma il ministro della giustizia brasiliano minimizza e assicura. La possibilità di un attacco durante i giochi è minima. La cellula terroristica era amatoriale e disorganizzata. E all'indomani dell'operazione che ha portato al fermo di 10 brasiliani emergono particolari sui membri di questa organizzazione. Uno di loro, un ragazzo di 23 anni, ha frequentato un corso di arabo al Cairo nel 2012 e 2 anni prima si era convertito all'Islam. Si era fatto scattare in Egitto una foto con la bandiera nera dell'ISIS, ma aveva cancellato tutti gli scatti dal suo PC, come rivelato dalla moglie. Gli inquirenti, infatti, hanno ritrovato l'immagine grazie al profilo Facebook di un amico del ragazzo. Gli arrestati verranno tenuti in custodia per almeno 60 giorni. I membri della cellula, tutti brasiliani, hanno partecipato a una cerimonia di iniziazione all'ISIS su internet, scambiandosi foto e video delle stragi di Orlando e in Francia. Il gruppo, inoltre, avrebbe cercato di acquistare, senza successo, un fucile d'assalto da un trafficante in Paraguay. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mentre ancora si indaga sui fatti di Nizza. Complicité de tentative d'assassinat en bande organisée. Mohamed Boulel, l'attentatore di Nizza, ha avuto sostegni e complicità. È la rivelazione del procuratore antiterrorismo di Parigi, François Molen. In conferenza stampa, il procuratore ha fornito dettagli sulla rete di 5 presunti fiancheggiatori dell'autista killer incriminati da un giudice parigino e posti in custodia cautelare. Ha anche spiegato che, secondo elementi di prova raccolti, Boulel aveva premeditato il suo gesto da diversi mesi. Tuttavia, lo stesso procuratore dice che nonostante la rivendicazione dello Stato islamico, un legame diretto con l'organizzazione non è provato. Nel frattempo, sulle autorità locali e nazionali, ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve in testa, in furia una tempesta di polemiche scatenata dalle rivelazioni di Libération, secondo il quale a bloccare l'accesso al lungomare per la serata del 14 luglio c'era soltanto una macchina della polizia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo agli aggiornamenti dalla Turchia. se necessario, estenderemo lo stato di emergenza oltre i 3 mesi previsti. Non ci sono ostacoli a prolungare il provvedimento. L'ha detto ieri Recep Tayyip Erdogan, rettificando in questo modo quanto aveva dichiarato il vice premier Kurtulmuş, ovvero che il governo sperava di togliere lo stato d'emergenza entro 40-45 giorni. Intanto si scopre che la notte del fallito golpe Erdogan non è riuscito a contattare il capo dell'intelligence. Lo ha rivelato Erdogan stesso, che avrebbe appreso del tentativo di colpo di stato dal cognato. È chiaro, ha detto che ci sono state delle significative falle nella nostra intelligence. Si aggrava nel frattempo il bilancio dei feriti nella notte del tentato golpe, che sale a 2.185 persone. Ieri sera migliaia di persone hanno sfilato su di uno dei ponti sul Bosforo scandendo slogan patriottici e protestando contro il golpe. Domenica ci sarà una manifestazione organizzata dal principale partito d'opposizione, il CHP. L'HPP di Erdogan, invitato a partecipare, ha fatto sapere il portavoce Yeshen Aktay, parteciperà e sfilerà insieme al CHP. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Ci occupiamo di economia e di finanza. Adesso RCS Consob ha respinto il ricorso. Sentiamo. RCS è protagonista della scena finanziaria mentre si susseguono 1000 colpi di scena, una settimana esatta dall'esito delle offerte per la conquista della società. Esito che ha decretato il successo schiacciante di Urbano Cairo, che è riuscito ad aggiudicarsi il 48,8% delle adesioni alla sua offerta. Questa mattina Consob ha dichiarato che allo Stato non ci sono i presupposti per la sospensione cautelare dell'offerta di Cairo, riservandosi comunque eventuali ulteriori accertamenti. Insomma, la Commissione di Vigilanza sui Mercati ha risposto picche all'esposto presentato nei giorni scorsi dalla cordata di Andrea Bonomi, che chiedeva di verificare eventuali irregolarità nello svolgimento dell'OPAS di Urbano Cairo. Esposto poi depositato dalla data anche presso la Procura di Milano. Nelle ultime ore Urbano Cairo ha inoltre incassato anche un'altra vittoria. Tutte le banche finanziatrici di RCS Media Group hanno comunicato di rinunciare all'esercizio della facoltà di richiedere il rimborso anticipato del debito, dimostrando fiducia all'editore e al suo piano di rilancio per il gruppo. Oggi intanto Cairo pagherà coloro che hanno aderito alla sua offerta e fino al prossimo 28 luglio gli investitori che avevano consegnato le proprie RCS alla cordata di Bonomi possono decidere di migrare verso la proposta di Cairo. L'editore dunque potrebbe raggiungere anche il 62% dell'azienda editoriale. Eleonora Micheli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Amazon avvierà la realizzazione di un nuovo centro di distribuzione a Passo Corese, frazione del comune di Fara in Sabina, 30 km da Roma, per soddisfare la crescita della domanda in Italia. L'investimento è del valore di 150 milioni, è stato annunciato da un comunicato della società questa mattina. Proprio oggi il fondatore e amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, sarà a pranzo con il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze. La vicenda della xylella. L'Italia non fa abbastanza per combattere l'epidemia di xylella fastidiosa, appunto il batterio che attacca gli ulivi propagato, specie in Puglia. La Commissione europea ha inviato oggi una lettera di messa in mora alle autorità italiane per i ritardi accumulati nella lotta appunto a questo batterio. L'Italia ora ha 60 giorni di tempo per rispondere. Roberta Pellegata ha raggiunto l'eurodeputato del Partito Democratico Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento di Strasburgo. Bisogna applicare le regole, questo è il punto fondamentale. Applicare le regole significa al momento, questo chiariamolo a tutti gli ascoltatori, non bisogna tagliare nessun albero, bisogna fare monitoraggi continui affinché non ci sia il rischio di uno spostamento verso nord del batterio da quarantena, della xylella fastidiosa. Quindi nell'area del cuscinetto bisogna controllare, qualora ci fosse un nuovo focolaio, in quel caso bisogna ovviamente intervenire. Tutta l'area sud della provincia di Lecce, parte della provincia di Brindisi e di Taranto non occorre tagliare, semmai lì occorre invece avviare una nuova, come dire, ottimismo, speriamo, degli olivicoltori, rilasciando anche la possibilità di nuovi impianti. Questo credo sia un fatto fondamentale, perché dobbiamo ridare fiducia e speranza, non possiamo fermarci solo alle notizie negative. La politica vede in primo piano il centrodestra. Agita le acque nel centrodestra la candidatura di Stefano Parisi alla guida della coalizione. Il via libera, arrivato da Silvio Berlusconi, consigliato in questo anche da Letta e Confalonieri, in queste ore sta facendo però infuriare i colonnelli di Forza Italia. La vecchia guardia non ci sta a farsi rottamare dal manager che ha perso di misura il ballottaggio alle ultime comunali di Milano. Tornato in campo dopo l'operazione al cuore, il cavaliere non sembra però intenzionato a fare passi indietro e oggi incontrerà ad Arcore i vertici azzurri, i quali non hanno gradito anche l'annuncio di Parisi di una grande convention da fare a settembre per ricostruire il centrodestra. Il nome dell'ex direttore generale di Confindustria non piace neppure alla leader di Fratelli d'Italia, Meloni, che insiste invece nel chiedere le primarie. Lo stesso fa anche Fitto dei conservatori e riformisti. Il no più deciso è però quello che arriva dalla Lega Nord. Quello di Parisi è un modello perdente per il centrodestra. Noi non ci stiamo, taglia corto il segretario del Carroccio Salvini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Iniziamo un po' in anticipo rispetto al solito il nostro giro per l'Italia. Il primo punto sulla mappa lo mettiamo a Milano, però diciamo un punto sulla mappa in realtà un po' vago, perché ci occupiamo di case vacanze. C'è un'operazione della polizia di questa mattina che ha portato a 22 denunce per una serie di persone per una serie di truffe online per le case vacanza. Affittavano appartamenti inesistenti o dei quali non avevano la disponibilità. Sono 600 i casi accertati di raggiro. Siamo in linea con Lisa Di Berardino, dirigente della polizia postale. Scusate, buongiorno Di Berardino, benvenuta. Buongiorno a lei. Allora, quello che vogliamo sapere da lei, al di là dei dettagli dell'operazione, insomma, che li abbiamo dati noi in linea di massima, è capire come si può stare attenti, che verifiche bisogna fare, perché insomma siamo a ridosso e probabilmente dando questa notizia avremo anche scatenato un po' di panico in qualcuno che si prepara a partire adesso all'inizio di agosto e ha paura di ritrovarsi senza niente in mano nel momento nel quale arriva nel luogo di vacanza. Sì, allora la Polizia di Stato raccomanda, quando si vuole prenotare un appartamento per le vacanze, l'ideale sarebbe, se fosse possibile, accertare di persona, cioè visitare l'appartamento, avere qualcuno che con le chiavi ci permette di entrare nell'appartamento e visitare l'appartamento dello Stato, ma se questo non è possibile bisogna assolutamente fare delle analisi, cioè accertare se l'immobile esiste, ma non solo fisicamente come fotografia, attraverso magari Google Map, o accertarsi chiamando la Proloco, l'ufficio del turismo. Ogni comune ha a disposizione per i turisti la possibilità di dare informazioni a quelli che vogliono visitare il paese e le bellezze dell'Italia, per cui sì, tutte le agenzie hanno a disposizione, conoscono quali sono i proprietari che mettono in locazione gli appartamenti. Sì. Senta Di Berardino, e poi al di là appunto della verifica magari su Google Maps o su insomma qualsiasi sistema di questo tipo di mappe che ci consenta di andare a vedere se l'immobile esiste effettivamente, mi raccomando, incrociare i dati, magari se un immobile è presente su più siti, no? Esattamente, la foto spesso utilizzano questi criminali truffatori, la stessa foto per fare annunci diversi, annunci che vengono creati ad hoc per ingannare gli utenti. Quindi verificate le foto, verificate diversi siti, vedete se la stessa foto o anche gli interni dell'appartamento non sono presenti in proposte di locazioni in siti diversi. Quindi verificare, poi l'inizio, la caparra, ma il minimo che si può dare della caparra, mai dare la somma intera o il terzo della somma, chiedere anche documenti, anche se questi erano bravi, chiedevano anche la modulistica, inviavano modulistica di un contratto ovviamente falso di locazione, però è sempre opportuno, secondo me, rivolgersi a quelli che sono le strutture locali del posto per poter avere l'accertamento che l'appartamento esiste e che il proprietario abbia intenzione di locare l'appartamento. Ci scrive un ascoltatore, tra l'altro, dice: io questa estate ci sono cascato, 1200 euro ci racconta. Ci dispiace anche a noi naturalmente, perché poi è una vacanza rovinata. La ringrazio, grazie a Lisa Di Berardino, dirigente della Polizia Postale. Buone vacanze anche a lei, speriamo insomma che Vada tutto bene per i nostri ascoltatori. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo tra un attimo. Tra le cose, tra i temi che toccheremo, c'è ancora una volta quello dei migranti e del problema dell'accoglienza, un problema che riguarda, come abbiamo visto nelle settimane scorse, le località di confine, ma non solamente quelle, e anche i luoghi dove i migranti, i profughi e i richiedenti asilo arrivano, nella fattispecie la Sicilia, dove un sindaco ha minacciato di iniziare lo sciopero della fame perché ad Augusta non c'è più spazio. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'investitura di Trump, della nomination repubblicana, abbiamo parlato di terrorismo da Rio a Nizza, abbiamo parlato di Xylella e adesso abbiamo parlato anche, come avete sentito, di truffe per le case vacanza in affitto. Adesso, prima di iniziare il nostro giro per l'Italia, o meglio inserendolo nel nostro giro per l'Italia, c'è il viaggio che Radio 24 sta facendo, l'iniziativa che Radio 24 ha preso contro la violenza sulle donne. Nel 2015 128 donne sono state uccise dal marito, dal compagno, dall'ex marito, dall'ex compagno. Vi stiamo raccontando molti aspetti di tutto questo, anche quelli sociali, quelli psicologici e non solo, in onda tutte le mattine nel GR delle 7, poi lo ritrovate sul sito www.radio24.it e noi, come già vi abbiamo detto, abbiamo intenzione di affrontare tutto questo dal nostro peculiare punto di vista, raccontandovi singole storie e singole storie dal territorio. Qualcuno ci ha scritto nei giorni scorsi: pensate che tutto questo sia utile, che fare questo elenco di storie sia utile? Sinceramente pensiamo proprio di sì, soprattutto queste storie che non escono fuori, che non sono storie di omicidio o di femminicidio a seconda di come la vogliate dire, ma sono storie semplicemente di maltrattamento, di botte, perché sono i femminicidi, le uccisioni delle donne sono la punta dell'iceberg di tutto questo. Prima c'è tutta una parte di maltrattamenti, una parte di mancate denunce anche da parte delle donne, che non esce sulla cronaca nazionale, che non viene raccontata e che vale la pena raccontare. Radio 24, dalla parte delle donne. Allora, a Bolzano, una donna ha deciso di rendere pubblico tutto, con coraggio, riferisce il quotidiano Alto Adige, ha pubblicato le sue fotografie su Facebook con i segni delle botte sul viso, sulla spalla, sulle gambe. I risultati di una violenza, l'ennesima, subita un mese fa per mano dell'ex compagno, che l'avrebbe picchiata anche mentre stavano insieme. A Recanati, nelle Marche, dove una donna, passando in auto, ha visto due persone che litigavano dentro un'altra macchina. Si è fermata per controllare. Lui aveva le mani al collo di lei, la insultava e la picchiava. La donna intervenuta ha minacciato di chiamare le forze dell'ordine. L'uomo se n'è andato, ma pare che alla violenza abbiano assistito altre persone che passavano di là, che hanno preferito non intervenire. A Pachino, in provincia di Siracusa, un uomo di 31 anni, il nome Ben El-Mehri Ezzedin, di origine tunisina, è stato arrestato per aver picchiato la moglie e per aver provato a colpire anche i carabinieri che erano venuti ad arrestarlo. Il 10 febbraio scorso l'uomo era già stato denunciato per maltrattamenti e sequestro di persona. Aveva chiuso il figlio in casa per convincere lei a proseguire la relazione. Si erano separati, ma poi lei lo aveva di nuovo accolto in casa. Radio 24, dalla parte delle donne. E nel nostro giro per l'Italia il prossimo punto sulla mappa lo mettiamo ancora in Sicilia, ad Augusta, e siamo in linea col sindaco o con la sindaca Cettina Di Pietro. Cosa preferisce lei? Buongiorno. Sindaco, preferisce, buongiorno. Lei preferisce il sindaco. Io ho deciso, a questo punto lo chiedo direttamente alle donne sindaco, perché qua non, se no non ne usciamo mai più. Allora, il sindaco Cettina Di Pietro, stiamo, i nostri ascoltatori lo sanno, stiamo trattando molto spesso questo tema dell'accoglienza di migranti, profughi e richiedenti asilo. Ovviamente le situazioni più critiche sono ai confini, al nord Ventimiglia, Tarvisio, il Brennero, i confini con la Svizzera, ma naturalmente anche gli altri confini, quelli del mare. Ad Augusta arrivano tantissime persone, si contano nell'ordine delle migliaia, e il problema è talmente forte che lei ha minacciato di fare uno sciopero della fame, no? Assolutamente sì. Purtroppo è dopo un anno di, come dire, di richiesta di aiuto, di carte protocollate a tutti gli enti preposti, non mi rimane questo gesto, ovviamente a situazione immutata, eclatante, per vedere se almeno così qualcuno mi dà ascolto. Per vedere appunto se qualcuno le dà ascolto, ci dà qualche numero di quello che succede ad Augusta, di quello che è successo ad Augusta in questi primi sei mesi, per dare la dimensione ai nostri ascoltatori di quel che succede? Guardi, io non sono molto brava con i numeri, però posso dirle che da quando è iniziato Mare Nostrum i minori stranieri non accompagnati, perché purtroppo la situazione è più drammatica, riguarda loro, sono quei minori che arrivano in Italia dopo aver attraversato aver fatto un viaggio della speranza privi di famiglia. Sì, lo ricordiamo ancora una volta per i nostri ascoltatori, mentre l'accoglienza degli adulti è in capo allo Stato e se ne occupano quindi i prefetti e quindi poi mettono in atto una distribuzione più o meno corretta, di quello poi ne abbiamo parlato spessissimo, dei profughi richiedenti asilo e migranti all'interno di varie strutture in varie parti d'Italia, dei minori non accompagnati si devono far carico i comuni nei quali arrivano. Ne abbiamo parlato tra l'altro proprio col comune di Palermo nelle ore scorse. Ci dica un po', da questo punto di vista, visto che poi l'accoglienza è in capo a voi, come siete messi? Siamo messi che dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum i minori stranieri non accompagnati sono oltre 7.000 giunti ad Augusta. 7.000 su una popolazione di 36.000 abitanti, no? Se non sbaglio. Il problema è questo: quando si è deciso appunto di individuare Augusta come punto di sbarco, è stato fatto dall'oggi al domani senza dotare, in una situazione chiaramente emergenziale, il territorio di qualsiasi tipo di struttura. È stata una scelta conveniente perché presenta un'importante base militare e quindi si aveva un supporto logistico per le navi della Marina Militare, certo, che ovviamente sbarcavano ad Augusta, ma oltre il supporto logistico della Marina Militare il territorio di Augusta è totalmente privo di strutture. Le strutture che in questo momento per legge, secondo un recente decreto legislativo che è stato emanato proprio lo scorso agosto nel 2015, il numero 142, all'articolo 19 ci dice in realtà che in via primaria, anche per i minori stranieri non accompagnati, l'accoglienza dovrebbe essere garantita da strutture governative. Sì. Queste strutture governative naturalmente sono rimaste soltanto sulla carta. Sì. Poi ci sono. Ma mi faccia capire, sì, sindaco, mi faccia capire una cosa: ma voi al momento accogliete effettivamente 7.000 minori non accompagnati? 7.000 sono arrivati, sì, a sono partire arrivati. Dal 2013. Okay. La situazione è diversa, le dicevo. Le strutture governative non esistono, sono solo sulla carta, in subordine sono indicate delle strutture regionali accreditate a livello regionale secondo degli standard che chiaramente devono avere cura della particolare situazione e tutela che deve essere data nei confronti dei minori. Le strutture regionali accreditate sono sature. In ultimo, il terzo comma appunto di questo articolo 19 prevede che in caso di temporanea e lo virgoletto indisponibilità di questo tipo di strutture sia governative che regionali, la responsabilità ricade sull'autorità, sì, comunale. Ora, sì, dal momento che strutture governative non ce ne sono, il sistema di accoglienza delle strutture regionali accreditate è totalmente saturo, questo si traduce nel fatto che la situazione drammatica appunto che si è creata ora è che da ben dal 6 luglio sono presenti appunto in una tenda al porto commerciale di Augusta circa 50 minori che dovrebbero essere una mia responsabilità. In una tenda, 50 minorenni in una tenda. Esattamente. Questo è. Ed è una situazione drammatica per la quale non dormo la notte, non mi posso sentire responsabile perché sono appunto il sindaco di una paese di poco più di 36.000 abitanti sul quale la normativa italiana scarica una responsabilità immane. Minori di che età, sindaco? Dall'incirca sono tra i 15, 16, 17 anni, non sono proprio piccolissimi perché i casi più vulnerabili comunque tentiamo di collocarli, sì, nell'immediato. Comunque permane una situazione chiaramente di minori che sono costretti a stare sotto una tenda, ricordo che qui in Sicilia il clima non è neanche mite, Hanno comunque tutta l'assistenza per quanto riguarda il cibo, diciamo, i bisogni primari, però non è quello che vorrebbe la legge, non è corretto nei confronti di minori di qualsiasi nazionalità essi siano. E anche il ritmo degli arrivi, non solo dei minori ma anche degli adulti, è intensissimo e continua ad essere intensissimo. Dal 24 di giugno, le spiego un po' la situazione paradossale che comunque io ho denunciato, come dicevo già in premessa, fin dall'ottobre dello scorso anno, quando mi sono resa conto della differenza di trattamento, di modalità diciamo degli sbarchi e nei diversi punti dove gli sbarchi appunto vengono effettuati in Sicilia. Allora, in tutti i luoghi dove non c'è un centro di prima accoglienza, vedi ad esempio Porto Empedocle, gli sbarchi avvengono con queste modalità. Arriva la nave, viene fatto un primo triage grazie ad Emergency, Croce Rossa, dopodiché vengono caricati nei pullman e trasportati via per fare l'identificazione. Ad Augusta questo non avviene, caso appunto unico in tutta la Sicilia, perché pur non essendoci delle strutture con diciamo le caratteristiche che ho meglio specificato prima, sono state create è stato creato un dispositivo nell'area del porto commerciale di Augusta. Tra l'altro, ma questo è un altro aspetto, chiaramente mortificando quella che è la vocazione commerciale di questo stesso porto. Esattamente, sono state create queste due grandi tende, in una sono alloggiati maggiorenni in attesa appunto che vengano trasferiti, e un'altra minorenni. Poi ci sono dei container, dei bagni chimici, quindi è stato creato una sorta di centro di prima accoglienza di fatto. Tanto che vengono effettuate, in barba a quello che ha dichiarato, come dire, Alfano a diverse riprese, vengono effettuati quelle che sono le tipiche identificazioni con le stesse attrezzature che viene utilizzata negli hotspot. Quindi la permanenza va ben oltre le 24-48 ore, ragione per la quale questo attendamento era stato creato, e si potrà per giorni e giorni, e dal 24 giugno, che diciamo, questa situazione solo brevemente sindaco, ha già iniziato lo sciopero della fame o lo inizierà? No, giorno 5, dicevo, 24 giorno 5. È un mese che il porto non riesce ad essere svuotato, quindi le tende sono piene, l'assistenza viene data esclusivamente da volontari che si trovano lì, H24 peraltro. Scorso fine settimana si è verificato due sbarchi in un giorno, uno è avvenuto alle 10 di sera, non c'è stato modo di identificare questi immigrati, e la mattina dopo circolavano tranquillamente senza identificazione nel territorio del mio comune, con tutto quello che ne può conseguire in termini anche di sicurezza ovviamente, per la popolazione. Ovviamente. Allora io la ringrazio sindaco, mi sembra che insomma ci abbia raccontato bene qual è la situazione ad Augusta, luogo di confine appunto. Grazie a Cettina Di Pietro, sindaco di Augusta, e Pierfrancesco Maiorino, assessore del Comune di Milano, benvenuto, anzi bentornato ai nostri microfoni, assessore al welfare. Buongiorno. Allora, per parlare di una vicenda correlata a tutto questo, abbiamo letto in queste ore sui quotidiani milanesi, il prossimo punto sulla mappa che mettiamo dunque, di una maxi rissa e coltellate in un centro profughi a via Saponaro. Se vogliamo, un po' una testimonianza anche della tensione che continua a circondare tutta questa vicenda, cioè anche il fatto che ci si facciano paginate di giornali, naturalmente. Maiorino, ci dà un quadro della situazione su questo caso, se ce l'avete, e su Milano in generale? Ma su questo caso la questione è abbastanza semplice. Siamo stati di fronte ad una vicenda esplosa in un centro, a titolo di cronaca lo dico, ma non perché voglia, diciamo, tirarmi fuori dalla vicenda di cui è responsabile un centro, di cui è responsabile prefettura, perché a Milano c'è un sistema, come ricorderete, forse misto, una parte dell'accoglienza la gestiamo noi, una parte la gestisce prefettura, però sicuramente possiamo dire che è il sintomo, anche se l'episodio poi non è stato di per sé, per fortuna, drammatico, è il sintomo comunque una situazione complicata, data anche dal sovraffollamento, data dal fatto che abbiamo numeri piuttosto stressati. Noi abbiamo... Quanti ne accoglie al momento Milano, Maiorino, tra le strutture vostre e della prefettura? Certo, ci arrivavo, abbiamo più circa 3.100 profughi tra tutti, adesso al di là delle tipologie, anche per brevità, circa 3.100 profughi tra tutti, Milano città, e secondo i numeri stessi di prefettura, cioè i coefficienti che calcola prefettura, noi dovremmo in città averne 2.000, invece quindi abbiamo 1.000 in più, e invece nell'area metropolitana in tutto ci sono sono 500 profughi in meno rispetto al numero che dovrebbe, diciamo, così sì. Essere. Cioè, ci vorrebbe una redistribuzione. Guardi questo che ci quindi dice. Ci vorrebbe una radicale distribuzione sul territorio provinciale, come ci vorrebbe una radicale distribuzione sul territorio nazionale, perché la situazione attuale, frutto di anni di gestione, io credo, inadeguata a livello nazionale dell'accoglienza, fa sì che ci siano comuni che caricano tanto, si auto, diciamo, anche responsabilizzano in maniera molto significativa, e altri che fanno pochissimo. C'è al lavoro, c'è un lavoro con l'ANCI, il governo so che sta lavorando in questa direzione. Però insomma io l'impressione, Maiorino, mi scusi, l'impressione, Maiorino, lei si occupa di questi temi lei si occupa di questi temi da molti anni, è stato anche assessore occupandosi di queste cose nella precedente giunta di Milano. Sì. La nostra impressione dalle storie che stiamo raccogliendo dal territorio, un po' da tutto il territorio, è che come dire, le strutture del Ministero dell'Interno stiano effettivamente faticando, a volte anche per colpa degli stessi sindaci che si rifiutano di accogliere, dall'altra parte appunto per magari dei meccanismi delle prefetture che non funzionano, però l'impressione è che il sistema di accoglienza non stia funzionando in questo momento. Ma io sono completamente d'accordo con voi, lo dico da tempo, noi dobbiamo ripensare radicalmente il sistema d'accoglienza. Non funziona più questo meccanismo affidato dal, diciamo, in questa via un po' a metà tra anche le responsabilità delle prefetture, quelle dei comuni, c'è molta confusione. Abbiamo un problema di equità nella distribuzione territoriale, di qualità nei progetti di integrazione, di relazione tra le diverse forme di accoglienza. Sì. Vi faccio un esempio, anche in questo caso vado breve, giuro, sì, ma brevissimo, vi faccio un esempio, grazie, per farmi capire. Pochi giorni fa un gruppo di afghani è stato, si è visto riconoscere lo status di rifugiato, quindi è stato mandato, messo alla porta dal centro della prefettura dove erano, perché hanno lo status e quindi devono, diciamo, non c'è più bisogno dell'accoglienza in quanto richiedenti. Sì. Non essendo partito però il progetto di integrazione, sono finiti per strada e noi li stiamo riaccogliendo nelle strutture del comune. Detto, nelle strutture del comune, questo vabbè, la dice, diciamo, sì, direi dice decisamente lunga. E la ringrazio per questo esempio e con questo la saluto. Grazie per Francesco Maiorino, assessore al welfare del Comune di Milano. Pausa, la borsa e poi una storia che, devo dire la verità, ci ha colpito abbastanza. Un uomo che nel giro di un mese è stato arrestato due volte. La prima volta aveva 7 etti di marijuana, la seconda volta 1,5 etti, e tutte e due le volte è rimasto libero, è stato lasciato libero. Ne parliamo col suo avvocato. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri titoli. Trump riceve la nomination repubblicana, sarò la vostra voce, ripristinerò forza e sicurezza, dice. Terrorismo, riflettori su Rio de Janeiro dopo 10 arresti di ieri, Hollande mobilita 15.000 riservisti da fine luglio. Migranti, centinaia di persone che arrivano ogni giorno ad Augusta, il sindaco, lo avete sentito, annuncia lo sciopero della fame. Per la xylella la Commissione europea avvia una nuova procedura di infrazione contro l'Italia, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Il prossimo punto sulla mappa nel nostro giro per l'Italia lo vogliamo mettere a Ferrara per raccontare una storia che ci ha colpito molto. L'abbiamo pescata su uno dei quotidiani locali, sulla Nuova Ferrara, come spesso facciamo, andiamo a scavare tra queste storie. Allora, succede questo, la vicenda riguarda un ragazzo di 20 anni nigeriano, si chiama Eric Heimonkale, questo il suo nome. La sostanza è questa, è stato beccato due volte, la prima volta con 7 etti di marijuana, la seconda volta con 1,5 etti di marijuana, entrambe le volte è stato preso e poi liberato quasi subito. Il suo avvocato Luca Morassutto è in linea con noi. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno Sade, buongiorno a tutti. Allora, chiaramente lei è l'avvocato di questa persona e però le vogliamo chiedere, perché lei capirà bene che anche i nostri ascoltatori si staranno chiedendo, ma insomma, ma com'è possibile una cosa di questo genere? Cioè, una persona viene beccata con appunto delle dosi addirittura già preparate nel secondo caso e quindi con un'idea di spaccio piuttosto acclarata, anche se poi per questo ci sono processi e tutto quello che vogliamo, e poi viene liberato immediatamente. Come avviene questo? Beh, anzitutto per quanto riguarda la seconda parte del giudizio a cui è stato sottoposto l'imputato, che era quello per l'appunto dei fatti di Ferrara, la risposta è abbastanza semplice. Nel primo caso in realtà è un momentino più complicato, nel primo caso era un reato in concorso, c'era un'altra persona, quindi non era da solo, e il giudizio non si è ancora concluso da quanto so, non sono io il difensore in quel procedimento, non si era svolto presso fuori di Ferrara ma a Bologna se non vado errato, e di conseguenza non rientrava nelle more del giudizio di Ferrara. Per quanto riguarda invece il secondo, la verità è molto più semplice, i giornali ovviamente devono stringarla, non è sempre così facile riassumere un procedimento. Il ragazzo non è così acclarato che fosse lui anzitutto ad avere il borsello era stato trovato su un terrazzino, di conseguenza bisognava capire di chi fosse quel borsellino, c'erano 12 persone all'interno di una stanza, quindi quantomeno potremmo già partire col fatto che lui poteva essere uno dei 12 possessori del borsello, il che non significa che fosse il proprietario il possessore unico. C'è una testimonianza che dice che il ragazzo era entrato in quell'appartamento con quel borsello, ma lei sa, le testimonianze devono essere poi ovviamente vagliate all'interno del processo. Poi c'è un fattore che in realtà è sfuggito un momentino alla cronaca, la quantità di sostanza stupefacente trovata, anzitutto era marijuana, quindi una droga leggera, era una quantità modesta, non era una quantità considerevole. È un etto e mezzo comunque, no? Sì, ma è una quantità assolutamente quante canne ci si fanno, quanti spinelli ci si fanno con un etto e mezzo? Dipende da quanto uno la carica, va bene, però... Dipende dal principio attivo, sì. Nel senso che se è un principio attivo alto ne possiamo fare veramente tantissime, se il principio attivo è molto basso ne facciamo ben poche, quindi sì. Dipende tutto dal principio attivo. E non posso dare la risposta sul principio attivo per due ragioni. La prima perché è un rito abbreviato, di conseguenza non è ancora stato celebrato, e il secondo lo scopriremo il 25 di agosto perché semplicemente pare che non ci siano le analisi tossicologiche. Detto ciò, ripeto, un etto e mezzo non è tanto, è una quantità assolutamente modesta. Questo che cosa ha permesso? Ha permesso di riconfigurare il reato. La misura cautelare che era stata sottoposta, era stata data ad Eric, quella dell'arresto, della produzione in carcere, dipendeva dal capo di imputazione, gli era stata contestata l'ingente quantità. Sì. Ecco che allora può scattare l'arresto. Ma quando viene riconfigurato il reato degrada a lieve entità, quindi a un quinto comma, inevitabilmente. Anche nel caso della contestazione di spaccio? In questo caso, da quel che ho capito, una lieve quantità però sempre ai fini di spaccio. È una lieve quantità che viene contestata sempre ai fini di spaccio, ma è pur sempre una lieve quantità. Tenga presente che c'è un recentissimo caso della Corte d'Appello di Venezia per dei casi di cocaina, assolutamente uno spaccio più rilevante, e anche in questo caso viene data il concorso e la lieve entità. La lieve entità degrada molto il reato, sia nella sua fattispecie diciamo generale di gravità, quanto anche per le misure cautelari personali che si possono applicare. A questo punto il giudice non ha fatto altro che fare due conti. Uno, l'aspetto quantitativo, sì. L'entità è modesta, di conseguenza non posso applicare la misura della detenzione in carcere. Sì. Due, il soggetto non aveva nessun tipo di rapporto stabile con la città. Non aveva un lavoro, non aveva parenti, non aveva familiari, non aveva affetti, non aveva nessuna ragione. È un richiedente asilo, giusto per capire perché stesse in Italia. Ecco, su questa cosa le rispondo sì, è un richiedente asilo, ma non riesco ad addentrarmi per una ragione. Perché la richiesta di asilo, tutte le pratiche, se non vado errato, si sono svolte in Puglia. Il fascicolo è presso il Tribunale Civile in Puglia e non era entrato minimamente nel fascicolo penale di Ferrara. Di conseguenza sono cose che io non conosco. Mi scusi, si stanno occupando tre tribunali di questa vicenda, cioè Bologna, Ferrara e un tribunale Puglia. Giusto per capire. Se ne occupa un tribunale. Potrebbero diventare anche quattro quei ricorsi al TAR. Per essere chiari, non è che è colpa del suo assistito, lo dico semplicemente. Semplicemente perché queste sono le cose italiane. Si chiama competenza territoriale, dove avviene un fatto diventa competenza il tribunale di quel luogo, questo è inevitabile. Però una volta che il giudice accerta che non ci sono rapporti con la città, sì. Ecco che il giudice può fare quello che ha fatto, sì. Cioè non dargli gli arresti e vietargli l'ingresso in città. In città, che è quello che è avvenuto. Quindi esatto. Lui non può entrare a Ferrara a questo esatto, punto. Allora esatto, la ringrazio. Grazie all'avvocato Luca Morassuto per essere stato con noi e buona giornata. La ringrazio, buona giornata. Buona giornata a voi. Vale. Bene, grazie. Grazie avvocato. Noi adesso ci fermiamo. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Poi c'è il nostro Mario Platero dalla Convention Repubblicana. Ci risentiamo alla fine per i saluti.